Presentarmi è inutile, come preservarmi da solita scuse lurida. Mi addentro nel mio film mentre fumo slim, raccolgo slip, sento un po' di hip, ascoltami c'è loro trip. Premo scherzo dentro un thriller, critica la Miller. Aumenta la mia rabbia senza dolore, sudo passione amore, come un chirurgo alle prese con il filler. Boom, sono la fa killer. In Wonderland, DJ Tanuzzo, facce plastiche, crew, Mina Seder. Ehi, hey, pa-da-pa-boom, T-Record Studio.